Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mattino. I fiumi esondano. Sicuramente c'è delle parti dello Stato che non fa il suo lavoro. I forestali non fanno il suo lavoro, l'ente fluviale non fa il suo lavoro, le piccole comunità montane non fanno il suo lavoro. Perché siamo nel 2020, ma noi abbiamo gli stessi problemi che avevano negli anni 60. Ma non è che c'è lo scaricabarile del governo sui comuni, l'ANCI che si lamenta. Tutti, secondo me, non hanno fatto il loro lavoro. Abbiamo le strade provinciali che fanno pietà, pietà, ma a tutt'altri, anche agli altri servizi, controllo, tutto, vedi anche guardia caccia, per dire, io parlo della provincia di Vicenza, sono stati 18 ragazzi, con 110.000 ettari di zona Alpi, senza contare il resto di forma del Rio, non servono le province. Buongiorno Spezia, lavoro per un ospedale minore del Veneto e le confermo che hanno riaperto a pieno regime quegli spazi in cui fare i tamponi per bambini e non solo, e ci sono decine di persone tutti i giorni in attesa. Questo non si vedeva un mese e mezzo fa, due. E così è. Discapito di chi dice che stiamo facendo terrorismo. L'unica cosa che stiamo dicendo è di fare un po' di attenzione. Concordo abbastanza con il primo ascoltatore, quello che diceva che nel caso del dissesto idrogeologico, nel caso di quel che succede quando ci sono delle alluvioni, nessuno ha fatto il suo dovere, e questo riguarda sia i vertici politici che presumibilmente le strutture amministrative. Il tentativo è sempre di ritardare il più possibile questi lavori, c'è sempre qualcosa di più urgente da fare, e poi ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo anche sulle strade provinciali che citava il nostro ascoltatore, che sono un disastro. E là c'è il grande problema, la riforma del Rio, che l'ascoltatore citava, ha svuotato le province sostanzialmente, poi però il completamento ideale doveva essere la riforma costituzionale, che le avrebbe cancellate. La riforma costituzionale non è passata e le province sono rimaste in una sorta di terra di mezzo, con alcune competenze e altre, e però con pochi soldi. Questo problema andrà risolto, in qualche modo. È la seconda parte di 24 Mattino di martedì 6 ottobre. Sono le 7:22 minuti ed è la parte, come ben sapete, dedicata alla rassegna stampa. Oh, c'è un sacco di roba oggi, un sacco di roba. I titoli dei giornali sono in gran parte concentrati, ma non solo, sulla questione del virus, perché secondo La Repubblica riparte la battaglia, questo è il titolo. Il Corriere della Sera più freddamente ci dice: feste e multe, ecco le regole, il sia le mascherine obbligatorie, non ci sarà il famoso coprifuoco, le regioni riescono ad evitare appunto i limiti ai ristoranti. Il Quotidiano Nazionale ci dice che Conte, aperta parentesi, per ora chiusa parentesi, salva bar e ristoranti. Il Giornale, che non chiudono i locali, aperta parentesi anche qua, ma riaprono i porti, chiusa parentesi, perché si parla delle nuove norme, i nuovi decreti sicurezza. No alle mascherine all'aperto, è il titolo della Verità. Si prepara l'ennesimo decreto che limita le libertà a capocchia, sostiene La Verità, appunto. Il Manifesto: emergenza soft ma multe salate. Il Messaggero ci racconta una storia sulla quale arriveremo, La truffa dei tamponi a domicilio avviene a Civitavecchia, ma si teme che sia estesa anche a Roma. Falsi test a pagamento senza farli mai analizzare e rilasciando certificati di negatività, attenzione. Gravi minacce alle leghiste, attacchi violenti della sinistra, titola Libero, anche su questa storia arriveremo. Fatto Quotidiano, altra storia sulla quale arriveremo tra poco, Lega, scoperte 100 operazioni sospette. La Stampa titola con un'intervista a Di Maio, le alleanze pagano, e nei conti, ci dice La Stampa, la bomba pensioni. Il Sole 24 Ore, ecco i nuovi conti, debito più 194 miliardi, investimenti su del 27% nel 2021-2023, questo il titolo del Sole 24 Ore. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso e spesso mi capita, perché poi queste storie le pesca sempre Lorenzo De Cicco nella cronaca di Roma del Messaggero, e sono storie che, queste storie che arrivano da Roma, che a volte hanno dell'incredibile. Allora, premessa. I dipendenti, i macchinisti della ferrovia Roma-Giardinetti, che ogni giorno trasporta 30.000 romani per 13 ore dalle 5.30 di mattina alle 6.40 di sera. Che cosa succede? Succede che in una giornata, la giornata del 5 febbraio scorso, 37 macchinisti su 43 tutti insieme hanno un improvviso problema di salute o vari problemi di salute. Cos'è? È chiaramente una sorta di sciopero selvaggio. Non è una mattina qualsiasi, scrive De Cicco, ma in concomitanza con una protesta selvaggia strombazzata ai 420, per giunta da un'associazione di categoria, con tanto di convocazione d'urgenza da parte del Campidoglio per cercare di conciliare gli animi. Evidentemente questa cosa non era uno sciopero selvaggio. Per quell'assenza di massa che ha fatto chiudere il 4 febbraio scorso la ferrovia di ATAC Roma-Giardinetti, che collega Centocelle alla stazione Termini, non pagherà nessuno, né i macchinisti, né chi ha organizzato la rivolta in spregio a qualsiasi norma sul diritto di sciopero. Perché? Perché per fare luce sulla vicenda si era mossa l'autorità degli scioperi, aveva avviato un'istruttoria, aveva convocato i dirigenti ATAC per chiarire l'accaduto, e però alla fine non ha potuto far altro che archiviare la pratica. L'istruttoria è stata chiusa perché, si legge nel provvedimento del garante, a seguito delle precisazioni fornite dall'azienda, la commissione ha deliberato per il non luogo a procedere. Le precisazioni sono quelle comunicate dalla municipalità il 19 giugno su richiesta dell'autorità. ATAC ha spiegato che i certificati di malattia forniti dai dipendenti erano formalmente regolari e che di conseguenza anche l'indagine interna della società comunale si era chiusa con un nulla di fatto. Niente colpevoli, niente provvedimenti disciplinari, nemmeno un rimbrotto a voce. 13 si erano sentiti poco bene, un'influenza fulminante, altri 15 avevano un referto medico che attestava un malanno dei figli piccoli, altri 6 hanno sfruttato il congedo della legge 104, in 3 erano assenti per la donazione di sangue e il giorno dopo, incassate le rassicurazioni del comune sul fatto che non gli sarebbe stato tagliato lo stipendio, improvvisamente sono guariti tutti e sono tornati al lavoro. Ma pensa un po'. Che cosa curiosa, che malattie fulminanti, che sia dei piccoli, sia dei bambini, sia loro. Sempre sul Messaggero, andiamo a Civitavecchia, su quello che è il titolo di apertura. La truffa dei tamponi, fatti a domicilio ma falsi. E questo mette un elemento di attenzione, accende un riflettore su quello che può essere successo in seguito a questa vicenda. Gli sciacali del coronavirus, raccontano Mauro Evangelisti e Stefano Pettinari. Un'infermiera dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia e il suo compagno sono indagati dalla Procura della Repubblica della città portuale con l'accusa di aver rubato e poi eseguito dei falsi tamponi ad un gran numero di persone tra Civitavecchia e Roma. Cosa succede? Succede che tutto inizia il mese scorso, quando il compagno dell'infermiera, spacciandosi per medico, va ad eseguire i tamponi ai lavoratori di una ditta di pulizia a Roma, La Rapida, su incarico dello stesso titolare dell'impresa, ignaro del fatto che il cinquantenne non fosse realmente un dottore. Gli esami vengono svolti e dopo qualche tempo arrivano i risultati. È l'11 settembre. Tutti i dipendenti dell'impresa di pulizia risultano negativi, ma una delle lavoratrici vuole vederci chiaro perché sul foglio all'ospedale Spallanzani, oltre ad esserci scritto che è negativa, c'è una postilla sulla parte finale del documento dove si dice che in realtà non è esclusa la positività. Che significa? La signora va allo Spallanzani, chiede lumi, ma al centro infettivologico le fanno sapere che il responso non è loro. Il risultato non è mai stato redatto allo Spallanzani, dallo stesso ospedale capitolino controllano e scoprono che è riconducibile alla ASL Roma 4 a Civitavecchia, ma la ASL Roma 4 non sanno nulla. Morale, lo scandalo emerge. E soprattutto ci raccontano Mauro Evangelisti e Stefano Pettinari, si dice che si calcola al momento che tra le 30 e le 35 persone si sono sottoposte a questi finti tamponi, ma in realtà potrebbero essere molte di più, perché stando a quanto emergerebbe dall'indagine, il sistema messo in piedi dalla coppia andrebbe avanti già dall'aprile scorso, per cui il numero potrebbe essere molto più alto. Poi bisogna vedere, magari erano negativi davvero, però se erano positivi hanno continuato a girare convinti di non avere il Covid-19. E poi c'è un tema di controlli, questi tamponi. Chi li gestisce? Come vengono gestiti? Tanto che lo Spallanzani esprimono stupore, raccontano ad Emanuele Rossi, o meglio dall'ospedale San Paolo di Civitavecchia raccontano Emanuele Rossi, dicono: guardi, mi sembra impossibile che qualcuno riesca a portarsi via dei tamponi da qua dentro, perché teoricamente dovrebbero essere super controllati. Evidentemente così non è. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Istituzione scuola tutte le regole del mondo. Voi andate fuori da una scuola all'uscita, soprattutto dei ragazzi dei medie elementari, andate a vedere cosa succede dentro. Mascherina, distanziamento, guai, non c'era, le mamme inviperite. Appena sti ragazzi escono, sono al parchetto di fronte alla scuola, tutti abbracciati a giocare come pazzi furiosi. Caro Spezie, ogni mattina ci sentiamo la filippica sul Covid, sulle precauzioni che non adotteremo. Però dico, noi vediamo in televisione ogni giorno dei comportamenti sbagliati dei nostri politici. I sindaci neoeletti hanno festeggiato in quasi tutte le città d'Italia senza mascherina, con assembramenti dei loro amici, abbracciandosi. È ovvio che il cittadino italiano medio non so se ci crede poco o non ci crede più a sta storia del Covid. Mia figlia è in quarantena preventiva. Ora io ho altri due figli che vanno a scuola. Per legge, insomma, io potrei portarli a scuola, ma per senso civico non l'abbiamo fatto. In questi 7-8 mesi la scuola non si è adoperata per continuare a fare, per prevenire appunto la seconda ondata. E dunque non fanno didattica a distanza. Cioè i miei figli dovranno stare tutti e tre a casa per 15 giorni, però si deve arrangiare mia moglie a cercare di vedere come può fare per farsi dare i compiti agli altri. Cioè, gli hanno risposto: oh, signora, ancora non ci siamo adoperati per la didattica a distanza. Il terrore che ha scatenato questo messaggio, l'ultimo messaggio di questo ascoltatore, che anche noi abbiamo tre figli, se mi succede una cosa di questo genere è da matti. Devo dire che concordo con entrambi, cioè c'è un problema dal lato di quello che fanno i bambini e i ragazzi appena escono da scuola, e c'è un problema dall'altra parte dell'esempio che si dà, che viene dato anche dai politici, dai sindaci che in queste ultime ore hanno festeggiato. Tra l'altro, a proposito, tra un attimo arriviamo alla politica, ma fatemi dire che a me questa storia del cardinale Becciu e dei soldi delle finanze vaticane inizia a farmi impazzire, perché si arricchisce ogni volta di nuovi elementi. Prendete qua la famosa storia che raccontavamo ieri della signora Marogna, Chi è una collaboratrice stretta del cardinale Becciu, l'uomo estromesso dalla guida delle finanze vaticane per una serie di spese considerate allegre dalla procura vaticana. Ebbene, Questa Cecilia Marogna, collaboratrice sarda dello stesso Becciu, sardo a sua volta, legata a quanto pare alla massoneria, collegata al faccendiere Flavio Carboni, della quale abbiamo raccontato ieri qual è l'ultima, ci porta qua la verità, a pagina 15, con il conto del Vaticano per i rapiti, la dama di Becciu comprava le Chanel. Mezzo milione di euro che il Vaticano utilizzava per, a quanto pare, per pagare dei riscatti per i missionari rapiti, che lei si intascava e, stando ai racconti che troviamo sulla verità, un documento pubblicato che, del quale è entrato in possesso un inviato delle Iene, Gaetano Pecoraro, e che del quale trasmetterà i dettagli questa sera, ebbene, la donna si comprava delle borse di lusso. Guardate che è una storia questa pazzesca nel complesso, perché inizia, se volete, con il processo per pedofilia al cardinale Pell. I testimoni, forse, stando alla Procura Vaticana, la Procura Vaticana ipotizza che avrebbero ricevuto dei soldi dal... sarebbero stati pagati per testimoniare contro Pell nel processo per pedofilia, perché Pell era quello che voleva fare pulizia nelle finanze vaticane, e quindi adesso nuovi sospetti si addensano sulla gestione Becciu, non su Becciu stesso, ma sulla gestione Becciu. Insomma, una storia che ha a che fare, appunto, anche con, se volete, con la battaglia interna che si sta combattendo all'interno del Vaticano. Magari una volta ci torneremo e l'approfondiremo nello spazio delle 8:35, perché ha a che fare anche, se volete, con la lotta, quella famosa lotta tra i tradizionalisti e i bergogliani all'interno del Vaticano. Veniamo però alle questioni politiche, di cui la prima è sicuramente il Consiglio dei Ministri di questa notte. Consiglio dei Ministri di questa notte che si è concluso ieri sera tardi e che ha dato il via libera alle regole che riscrivono i cosiddetti decreti sicurezza o decreti Salvini. Tra le altre cose, azzerando le maxi multe per le ONG. E qua siamo a pagina 11 del Sole 24 Ore. Il pezzo lo firma Marco Ludovico, che così riassume: si prevede il ripristino delle norme del codice della navigazione e la cancellazione delle supermulte volute da Salvini, da un minimo di 250.000 euro a un massimo di 1 milione. Con il nuovo articolato, i poteri del divieto di transito e di sosta di un'unità navale in acque territoriali ritornano al Ministero dei Trasporti. Se ci sono ragioni di ordine e di sicurezza, interviene anche il Viminale. Le multe del codice di navigazione sono comunque aumentate da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro. Il decreto legge poi interviene e riscrive le norme sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi legati agli stati di provenienza dei migranti. La stretta di Salvini con l'abolizione della protezione umanitaria si attenua di molto. C'è anche altro all'interno di queste nuove norme, la cosiddetta norma Willy, dal nome del 21enne Willy Monteiro Duarte, lo ricordate, ne abbiamo parlato lungamente, massacrato i botte davanti a un pub di Colleferro da 4 giovani accusati di omicidio volontario. Nasce una sorta di DASPO per le discoteche, per chi si è reso protagonista di atti di violenza, e scatta il rischio di incriminazione anche per chi solamente partecipa, viene scoperto che partecipa ad una rissa. È un po' curiosa questa norma, io ve la butto là, è un po' curiosa questa norma, perché se il povero Willy fosse sopravvissuto, avrebbe potuto essere incriminato, perché a quella rissa aveva partecipato, come ricorderete, per difendere un amico. Vedremo poi quale sarà l'applicazione di questa norma e quale sarà il contenuto effettivo di questa norma, però è curioso. Il governo, che ieri ha approvato anche la NADEF, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, tutti i dettagli qua li trovate, se volete, a pagina 2 del Sole 24 Ore, con Gianni Trovati e Marco Rogari, che raccontano tutto. Un debito che sale di quasi 200 miliardi, investimenti che crescono del 27% tra il 2021 e il 2023, e in tutto questo c'è una questione più stringente che riguarda i prossimi 3 mesi, e sono le famose cartelle esattoriali. È un tema che affronteremo più avanti nel corso della trasmissione con il sottosegretario per Paolo Baretta e la presidente di Confesercenti, e intanto però ci si sofferma e ci torna il giornale, che ieri aveva aperto il quotidiano parlando di questo. Siamo a pagina 10, dove il giornale riferisce delle parole che poco fa vi abbiamo fatto ascoltare del ministro Gualtieri, così: ho detto all'Agenzia delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità. Così il ministro dell'Economia: parliamo di debiti verso il fisco di anni precedenti che non c'entrano niente col coronavirus. E che è giusto che i contribuenti saldino, ma nel tempo che sarà necessario. Secondo il titolare del Dicastero di Via 20 Settembre, le rimostranze delle opposizioni sono esagerate. Nessuna tragedia epocale. Fatto sta che da giovedì 16 ottobre uno tsunami di 9 milioni di cartelle è pronto ad abbattersi sui cittadini e le aziende, scrive Gianmaria De Francesco. Sia l'Agenzia delle Entrate che gli agenti locali e i comuni potranno così riprendere le attività usuali, inclusi pignoramenti di stipendi o pensioni. I professionisti hanno dovuto ugualmente sborsare circa 3.000 euro per le rate INPS e INAIL e per il 65% delle partite IVA italiane. A dicembre si sommeranno anche i debiti fiscali rateizzati. Quindi il carico fiscale in arrivo potrebbe essere problematico. Dall'altra parte c'è l'esigenza delle casse dello Stato che si devono riempire, il traffico. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Quattro mattino. Ed eccoci 349-238-6666 se vorrete intervenire in diretta, o no, non in diretta, scusate, con i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, a partire dalle 8, l'800-24-0024. Se avete questioni che hanno a che fare con il fisco, mandate, raccontateci un po' la vostra, anche via messaggio scritto naturalmente, però se vorrete anche via audio. Cosa ancora dalla giornata? Allora, dal punto di vista politico c'è da segnalare questa guerra all'interno del Movimento 5 Stelle tra Casaleggio e gli stessi 5 Stelle. Ne dà ben conto Annalisa Cuzzocrea a pagina 17 del quotidiano La Repubblica. La guerra in cosa consiste? Nel fatto che dal Movimento 5 Stelle chiedono a Casaleggio di ridare agli stessi del Movimento 5 Stelle, però non è chiaro esattamente a chi, i nomi degli iscritti. La prossima mossa sarà una lettera con la quale i garanti chiederanno a Davide Casaleggio di consegnare loro la lista degli iscritti. Se non vorrà farlo, cercheranno di imporglielo per via giudiziaria, perché quei 170.000 nomi, quegli username e quelle password che hanno il diritto di scegliere quale strada devono prendere i 5 Stelle, come hanno fatto nel voto di Ferragosto che ha sdoganato le alleanze sul territorio, non possono essere esclusivo appannaggio di colui che ormai i dirigenti grillini considerano un mero fornitore di servizi. Così la guerra civile che infuria non sembra destinata a placarsi in alcun modo. Come vedete, qua viene a cuore quello che era un problema nemmeno troppo sottotraccia del Movimento 5 Stelle e che evidentemente finalmente emerge con queste tensioni tra Casaleggio e un pezzo di gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. C'è solo una persona che potrebbe intervenire con qualche speranza di essere ascoltato, o almeno potrebbe provarci, ma Beppe Grillo, il garante, colui che per statuto ha l'ultima parola su tutto, rimane silente, in attesa che quel che deve avvenga come per inerzia. Che sia un accordo o una scissione, ipotesi che, visti gli ultimi colpi delle fazioni in lotta, sembra ormai più probabile. Un movimento dunque che si va spaccando tra l'ala, per così dire, governista e l'ala un po' più di opposizione, guidata da Alessandro Di Battista, come ampiamente prevedibile. Problemi anche nel centrodestra, e questi problemi hanno a che fare con la tensione che sente Matteo Salvini intorno alla figura di Giorgia Meloni. Ce ne parla il giornale a pagina 14 con Adalberto Signore. Ricordate che ieri abbiamo citato con Paolo Mieli nello spazio che abbiamo quotidianamente alle 8:15 questa intervista ad Antonio Maria Rinaldi, che parlava abbastanza chiaramente, eurodeputato, che parlava abbastanza chiaramente di un avvicinamento verso il Partito Popolare Europeo. A cosa è dovuto questo avvicinamento al Partito Popolare Europeo? All'irritazione, sostiene Adalberto Roberto Signore di Matteo Salvini, che nasce da un dato inequivocabile. Nella legislatura europea 2014-2019 Fratelli d'Italia non aveva neanche un euro parlamentare, mentre da poco più di un anno ne conta solo 6. Eppure Giorgia Meloni è riuscita con abilità a scalare i vertici delle CR, al punto da essere nominata presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti, che è cosa diversa dal gruppo parlamentare a Strasburgo e a cui tuttora aderiscono sia i conservatori inglesi di Boris Johnson che il Partito Repubblicano Americano di Donald Trump. Insomma, un deciso passo in avanti sotto il profilo della legittimazione politica sia in Italia che all'estero. Mentre noi, si è sfogato in privato il leader della Lega, siamo fermi all'angolo nonostante i nostri 29 europarlamentari. Di qui l'idea complicata, però portata avanti da Giancarlo Giorgetti, di lasciare il gruppo ipersovranista Identità e Democrazia, dove si trova con Marine Le Pen e con Alternative für Deutschland, e passare al Partito Popolare Europeo. Però è un'operazione non facile, perché c'è il veto dei nordici, svedesi, finlandesi, olandesi e belgi, che già siedono tra i popolari, e poi le perplessità interne alla Lega, perché dentro il Partito Popolare Europeo c'è la iperodiata Angela Merkel. Non facile da questo punto di vista la scelta del partito di Salvini. Ieri intanto è stata una giornata di ballottaggi, ben lo sapete, su questo fronte il risultato è stato positivo per l'alleanza di governo, rafforzato l'asse Zingaretti e Di Maio, con una serie di comuni che passano al centro-sinistra. Ebbene, Luigi Di Maio celebra tutto questo, celebra questa sorta di vittoria unitaria con un'intervista a pagina 5 con Andrea Malaguti sulla Stampa. L'alleanza premia i 5 Stelle, rafforza Conte, e poi parla dei soldi del recovery che devono andare per aiutare le imprese. Vi voglio portare su due ultime questioni, giusto per queste abbiamo il tempo. Allora, la prima, sempre dalla Stampa, secondo me farà discutere abbastanza questa vicenda, ed è una vicenda che arriva dagli uffici pubblici di Berlino. Siamo con Letizia Tortello, inviata a Berlino, pagina 14. Non chiamate gli stranieri. Berlino riscrive le regole del lessico antirazzista in tutti gli uffici pubblici. Per sfidare le disparità è arrivato un manuale di 44 pagine, nel quale si scrive qual è il lessico che deve essere utilizzato, o che si auspica, che viene auspicato, che si auspica e venga utilizzato. Si comincia con la parola straniero. Ausländer non è più accettata perché ghettizza, separa, differenzia. Va sostituita con residente senza la cittadinanza tedesca. Per i richiedenti asilo stesso discorso, la dicitura è fuorviante. L'asilo è un diritto, dunque il beneficiario non deve essere messo in una condizione di dubbio. Meglio parlare di persone in cerca di asilo o abilitate a ricevere protezione. I migranti diventano, nel manuale dell'uguaglianza, persone con una storia internazionale. Quelli economici, migranti per lavoro. Addirittura, alcune modifiche più sorprendenti riguardano i passeggeri senza biglietto su metro e bus, detti Schwarzfahrer, letteralmente passeggero nero. Berlino non lo accetta più e cambia con uno schietto passeggero senza biglietto valido. Il verbo Anschwarzen, mettere in cattiva luce, ossia in una luce scura, va bannato a vantaggio di denunciare o diffamare. E a chiudere, ancora 30 secondi, pagina 3 di Libero, gli attacchi violenti della sinistra, gravi minacce alle donne leghiste, alla deputata Patelli ti uccido, alla romena Nica viene dato della venduta, alla candidata Mariam Scandroglio, originaria da Costa d'Avorio, ridicola buffona, se non fossi stata adottata saresti su un barcone, negazionista, in Costa d'Avorio saresti una prostituta, ti frega un cazzo di chi muore in mare, e qua nessuno alza un dito. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.